Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono perfettamente d'accordo con la necessità di avere un permesso di soggiorno prima di poter avere certi diritti nel nostro paese. È pur vero però che la legge può divenire discriminatoria quando l'accesso al permesso di soggiorno è quasi impossibile, come accade in Italia. Un breve esempio. Io sono italiano, mia moglie è giapponese, quindi diciamo non proveniente da un paese di pesante emigrazione. Lei è un addetto presso una fondazione culturale giapponese con regolare contratto. Tempo per il rilascio del permesso di soggiorno, dopo regolare presentazione di domanda, 18 mesi. Nel periodo in questione a mia moglie è stato anche vietato di lasciare il paese, in quanto il precedente permesso di soggiorno era scaduto e non rinnovato, manco a dirlo però, per colpa dello Stato italiano. Massimiliano. Vi volevo solo dire che con questa storia degli stranieri stiamo andando tutti nel pallone. Io sono un italiano di colore, nato all'estero, ma di nazionalità italiana. Ogni volta che vado all'ospedale, sul verbale di pronto soccorso, risulto essere cittadino straniero. Anche i terminali si sono maronizzati. Non si riesce a forzare il sistema del server neanche prendendolo a calci. Dante. In Francia, Spagna, Germania e Portogallo, la clandestinità, purché non vi sia recidività, non è un reato, ma soltanto un'irregolarità amministrativa. E la differenza non è affatto insignificante. Davide. Vivo in Germania e, avendo vissuto per più di 10 anni in Inghilterra, posso garantire che nei paesi del Nord Europa gli stranieri vengono trattati come esseri umani. Se si tratta di persone che hanno bisogno di asilo politico, vengono fornite loro abitazioni e soldi, a seconda di quante persone costituiscano il nucleo familiare. Lo stesso trattamento viene riservato ai disoccupati, siano essi stranieri o locali. Il divario con l'Italia è enorme, ma purtroppo gran parte degli italiani queste cose neanche le sa e ha il brutto vizio di parlare senza sapere. In conclusione, posso garantire che preferirei essere uno straniero nei paesi civili del Nord Europa, piuttosto che in Italia, dove neanche per gli italiani bisognosi esiste un sistema di welfare adeguato. Marcello, Lipsia. Io sono uno spagnolo innamorato dell'Italia, ma devo dire che sono stufo di sentire che in Spagna si spara contro gli illegali. Ma quando? Tutti i giorni? Ci dedichiamo forse noi spagnoli ad ammazzare clandestini come sport? È un'idiozia e, peggio ancora, è pura leggenda nera. Una volta, e dico una sola volta, ci sono stati gravi incidenti nella frontiera tra la Spagna e il Marocco, quando centinaia di marocchini hanno cercato di assaltare con la forza la frontiera di Ceuta e la nostra polizia ha sparato in aria. Nessun marocchino è rimasto ferito. La polizia spagnola invece sì. La Spagna ha gravi problemi di antisemitismo per via della politica pro-musulmana di Zapatero, ma dire che la Spagna spara a clandestini mi sembra esagerato. Anzi, il grande problema adesso per la Spagna è la politica di Zapatero, che ha dato ai clandestini gli stessi diritti che hanno gli immigrati regolari e gli spagnoli, e adesso non sa cosa farsene. In questo momento il governo spagnolo offre un mucchio di denaro ai rumeni se ritornano in Romania. Diamo il nostro denaro per inviarli in patria, ma non facciamo leggi razziali. Non abbiamo nessun politico che dica che i rumeni sono tutti ladri, e se qualcuno lo dice, il giorno dopo deve lasciare la politica. Non è consentita nessuna parola contro gli stranieri, contro i musulmani o contro i gay. Nessuna parola, o ti schiacciano. I vostri problemi politici non diminuiranno soltanto perché dite delle menzogne contro la Spagna. Tantomeno se queste bugie hanno le gambe corte. Aitor, Paesi Baschi, Spagna. La paura dell'immigrato è causata dalla mancanza di regole e di prevenzione della clandestinità. Tutte le più grandi democrazie hanno delle leggi molto severe sull'immigrazione, dagli Stati Uniti alla Spagna di Zapatero. Perché mai nessuno lo dice chiaramente? Edoardo. Franceschini ha purtroppo ragione. L'Italia sta scivolando piano piano verso una concezione razzista e totalitaria dello Stato. Legge dopo legge, provocazione dopo provocazione. I leghisti stanno facendo passare concetti impensabili fino a qualche tempo fa per il nostro vivere civile. Oggi è stata una giornata tristissima. 2 navi cariche di disperati sono state rispedite al mittente, quasi fossero pacchi postali indesiderati. Probabilmente molti di loro verranno incarcerati nelle fantastiche prigioni libiche, altri rimandati indietro in mezzo al deserto, condannati a morire di fame. e il ministro Maroni esulta di gioia per questa bella notizia che fa davvero onore al nostro paese. Quasi non bastasse, il suo compare di partito, Salvini, farnetica di tram con vagoni divisi per milanesi, immigrati, donne. Ovviamente sempre a fin di bene, per tutelare le donne dai palpeggiamenti dei maniaci. Ha ragione Franceschini, le leggi razziali non sono spuntate dal nulla, un bel giorno come d'incanto. Sono state il punto di arrivo di un lento cammino, di un lento scivolamento alla deriva, giorno dopo giorno. Carlo, Roma. Un barcone di extracomunitarie norvegesi, bionde, formose e disponibili, sarebbero state respinte allo stesso modo? L'indignazione popolare sarebbe stata maggiore? La Chiesa avrebbe fatto sentire la sua voce? Noi cattolici siamo sempre più bigotti, ci indigniamo per il distacco di un sondino a una ragazza che aveva il diritto di riposare finalmente in pace e chiudiamo un occhio, anzi tutti e due gli occhi, sugli immigrati nei barconi che muoiono in mare o che vengono respinti in Libia, che è come ucciderli. Sarebbe meglio considerarli alla stregua di animali, così forse il WWF o la Lega per la protezione degli animali si muoverebbero per la loro protezione e forse gli italiani si indignerebbero di più. Vuoi mettere l'effetto della notizia? Un barcone pieno di centinaia di cani destinati alle cucine cinesi in balia delle onde per settimane nel mar Mediterraneo, decine di animali morti e gettati in mare e mangiati dai pesci, una catastrofe canina. Mario. Premessa. Io sono il primo ad auspicare che si ponga fine agli sbarchi dei barconi carichi di disgraziati e di disperati. Non perché non abbia pietà per loro, ma perché è chiaro a tutti come l'Italia non possa farsi carico di accogliere tutti i migranti del mondo senza alcun limite. Al di là di questioni etniche e morali, e al di là di ogni considerazione riguardo la storia italiana, che narra di grandi migrazioni verso il nord Europa, le Americhe, l'Australia, non si possono ignorare le oggettive difficoltà pratiche che sorgono da un'immigrazione non regolata. Mi è quindi venuto istintivo ieri plaudire alla notizia che tre imbarcazioni in rotta verso l'Italia erano state intercettate e scortate al porto libico dal quale la nave era salpata. Magari questa nuova strategia, mi sono detto, potrà fungere da deterrente per scoraggiare ulteriori partenze dalle coste del paese di Gheddafi. Poi però mi sono imbattuto in un articolo dove alcune delle persone che nelle ultime settimane sono sbarcate a Lampedusa hanno raccontato di orrende sevizie e stupri praticati ai loro danni dai poliziotti libici. Su questo non si può soprassedere, perché dimostra che le partenze dei barconi dai porti della Libia non avvengono all'insaputa delle autorità locali, tutt'altro. E allora mi chiedo come la novità delle imbarcazioni rispedite indietro si incastri in questo scenario. Perché la Libia accetta di riprendersi i barconi quando invece non fa nulla, apparentemente, per impedirne la partenza? Non c'è qualcosa di strano? Non è il caso di approfondire un po' la questione? Cosa ne faranno le autorità libiche dei disperati rispediti indietro? Io credo che siano domande non solo lecite, ma anche doverose. Un conto è rispedire degli irregolari nei loro paesi d'origine. Un conto è scaraventarli nelle braccia di sadici aguzzini. E chi si è visto, si è visto. Se siamo un paese civile, non possiamo semplicemente voltare la testa dall'altra parte. Duccio. Le leggi razziali del 38 sono state una realtà storica determinata e non si ripeteranno nelle stesse forme. D'altra parte, quelle leggi furono preparate e rese possibili da una campagna culturale e mediatica che iniziò molto prima del 38 e che fece sì che quando si arrivò a quelle terribili leggi, gli ebrei erano ormai visti da una parte dell'opinione pubblica come persone ormai lontane dalla vita della maggioranza degli italiani. Questo spiega come mai la reazione della gente in quell'occasione fu veramente flebile. Io ritengo quindi che si debba essere molto attenti anche solo a prendere in considerazione che per alcune persone, dato che i clandestini sono persone prima che clandestini, si possa disapplicare l'osservanza di quei diritti che sono oramai assodati per il mondo occidentale, come il diritto ad essere curati sempre e comunque e il diritto dei bambini ad andare a scuola, senza che questo possa dipendere dallo status giuridico dei genitori. Livia. Alla luce delle critiche rivolte dall'ONU all'Italia per aver rispedito in Libia i clandestini che erano alla deriva nel canale di Sicilia, vorrei evidenziare le incongruenze dell'ONU nei nostri confronti. Perché il monito dell'ONU è a senso unico? Per Malta no? Perché nessuno dice nulla a Malta che si rifiuta di soccorrere i clandestini per non sobbarcarsi un tale onere? Oltretutto, se sono salpati dalle coste libiche, vuol dire che o li hanno ignorati, lasciando a noi la patata bollente, o non hanno adeguatamente pattugliato i loro confini, disattendendo i recenti accordi. Il rimpatrio in Libia fa parte di accordi presi, pertanto l'ONU non dovrebbe mettere il becco su accordi bilaterali. In ogni caso, l'Italia viene sempre bacchettata da un sacco di primi della classe. Interessante leggere che ogni volta che il nostro paese si muove in senso deciso contro l'immigrazione clandestina, qualcuno si preoccupa. Mi viene il dubbio se quelli dell'ONU siano preoccupati per le sorti di questi sfortunati o se abbiano invece paura che l'Italia, prima o poi, si svegli e smetta di fare la buona samaritana nei mari. Noi siamo obbligati a prenderli, soccorrerli, portarli in porto, sfamarli e tenerceli. Malta può addirittura chiamarci e dire di andare pure a soccorrerli nelle loro acque di competenza. Anch'io mi preoccuperei se un paese così utile e gentile si stufasse. Peccato che, essendo italiano, sono felice che finalmente ci si svegli. Perché mai Germania, Belgio e Regno Unito possono arrestare chi arriva clandestinamente, con pene variabili da 3 mesi a 1 anno, e noi invece no? E poi qualcuno mi spieghi perché a un SOS in acque internazionali dobbiamo intervenire solo noi. Malta, Libia e Tunisia vengono forse da noi solo per pescare? E la Tunisia, che ha detto che i suoi connazionali non li può prendere perché da noi hanno contratto l'AIDS. E ora l'ONU, che applaude ad Ahmadinejad, si permette di criticare l'Italia. Piero, Milano. Interessantissima provocazione quella di Salvini e delle carrozze per Milanesi Doc. Solo mi tormenta un dubbio. Come faremo ad attestare la milanesità Doc? Istituiremo un apposito istituto di tutela e certificazione della milanesità, un po' come quella dell'olio di oliva e del Barolo? Il milanese che sale sul metrò dovrà cucinare seduta stante la cassola? Oppure dovrà cantare «O mia bella Madonnina»? E in questo caso verranno assunti, previo bando comunale, opportuni pasdaran, guardiani verdi della milanesità per controllare la perfetta dizione? Mi aiutate a risolvere questo dilemma? Mauro. Perché invece non prevedere per tutti i trasporti pubblici servizi di prima e seconda classe, come da sempre esistono su aerei e treni? Chi viaggerà in seconda classe potrà risparmiare rispetto alle tariffe attuali. Chi viaggerà in prima classe pagherà di più, però avrà carrozze meno affollate, magari con la possibilità di trovare posto a sedere e magari con servizio di sorveglianza offerto da personale appositamente assunto per lo scopo, creando così anche nuovi posti di lavoro. Perché non fare una prova da qualche parte? Lettera firmata. Egregio direttore, ci si lamenta che la gente creda agli oroscopi e non vengano considerati solo un ludico e positivo benvenuto alla giornata che sta per iniziare. I media però li trasmettono dopo i giornali radio e i telegiornali assimilandoli alle informazioni vere. Gli indovini dell'antica Roma hanno fatto il loro tempo. Per quanto riguarda gli oroscopi, sarebbe ora che si spiegasse a chiare lettere come vengono compilati. Personalmente sarei favorevole alla loro abolizione. Sergio, Bergamo. Caro Sergio, sinceramente non credo agli oroscopi e all'influenza delle stelle. Penso che il destino di una persona sia scritto soprattutto nella sua volontà e talvolta in circostanze del tutto casuali. Ma non sono d'accordo con lei e non auspico nessun intervento repressivo su oroscopi, pronostici o previsioni. Guardare al futuro è uno degli elementi fondamentali dell'animo umano. Sperare in un futuro migliore, diverso, con qualche attraente novità, può aiutare a vivere anche meglio il presente. E per questo ricordiamo il Leopardi e il suo venditore di almanacchi che dice: quella vita, che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Così, il Leopardi, una saggezza che non ha confini nel tempo. La bellezza della vita sta nel futuro di ciascuno di noi. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.